Suoni e Magazine, inizio settimana tornando in diretta negli studi di Via Zanardi, linea dal GR di Radio Popolare a Radio Città Fujiko. 23 ottobre 2023 è lunedì, inizio settimana, cominciamo appunto con l'intersezione tra le rubriche ispirata dalla copertina di Robinson di Repubblica. È un'intervista a un figlio d'arte. Papà, guarda, non ti viene da piangere di fronte alle opere di Mark Rothko, che nasce nel 1903, di origini lettone, ebreo di origini lettone, si trasferisce poi a New York, è un grande artista, lo conosciamo, scompare nel 1970, sarà la Fondazione Vuitton di Parigi. Parla suo figlio Christopher, che viene intervistato. Interessante il lavoro portato da Robinson, scritto in un long format di Dario Pappalardo. La pittura del padre come tempio dove incontrare il sacro, Rublev e le icone, l'arte astratta come porta verso l'assoluto, un Giotto e Michelangelo, poi la depressione, le tele nere e il suicidio. Ora finalmente, dice il figlio, dopo tanti anni l'ho ritrovato. Aggiungo un particolare personale come emozione di Rothko, artista che a me piace tantissimo. Mark Rothko ha portato la metafisica nel colore, ecco, questa è la mia modesta analisi critica sull'artista Rothko, avere l'idea di metafisica solo con il colore, un artista che poi ha dato diversi approfondimenti e che è impossibile rinchiudere solamente in un recinto, quindi sto parlando di emozioni personali. A tal punto ho portato un disco dei Rothko, che è una formazione inglese composta da tre bassisti, già l'originalità è quanto mai speciale in questa formazione, che nell'ambient, nel post rock, hanno dato note che sono costante colonna sonora e come attitudine di sonorità alla musica e all'arte danno una visione di metafisica nel colore. Tra l'altro la loro è una musica molto visiva. Per loro recording ho portato questo disco di cui vi parlerò, intanto vi faccio ascoltare questi suoni in altri suoni. Nell'immediato vi posso dire, sono dei Sigur Rós molto meno leggibili ma anche molto molto più raffinati. Ascoltiamo qualche brano, un paio di brani tratti da questo disco di cui vi parlerò a breve. Rothko. Thank you. Come artista, Rothko si poneva domande essenziali. Chi siamo? Che cos'è la vita? Cosa c'è dopo? Aveva bisogno di un linguaggio artistico, diretto, di una strategia per portare tutto questo sulla tela. Il mito classico era il solo linguaggio universale che aveva individuato. Per lui la società industriale non era riuscita a realizzare che surrogati del mito, da possesso agli esseri umani, tutti insieme, davanti alla propria conduzione. Grande lettore di Eschilo, dei classici, di percorsi e di riflessioni che ha tradotto in una maniera metafisica, adoperando campi di colore su tela. L'intervista che a Brani sto leggendo anche su Robinson, l'intervista a Christopher, il figlio di Rothko. Il brano invece che stiamo ascoltando è Umber, dalla formazione che prende il nome dell'artista That Gone Not Forgotten, è il disco per Low Recording. Tappeti ambient veramente distesi come delle tele, linee di contrabbasso o di basso elettrico che ne danno decisamente un'idea che non solo è sonorità, ma è anche molto visiva. È vero che per un periodo Clark Gable fu il sostituto di scena di Mark Rothko a teatro, e risponde il figlio: sì, è verissimo, pensavamo fosse una delle solite storie di mio padre, no? E invece poi per caso abbiamo trovato la locandina come prova schiacciante. Il nome di Mark Rothko figurava in cima e William Gable, allora si faceva chiamare ancora così, compariva in basso come sostituto. Mio padre diceva che Clark Gable aveva ottenuto la parte solo perché si era fidanzato con la regista Josephine Dillon, che poi diventò la prima moglie. In effetti, ecco questa piccola parte per l'intervista, pagina 2, pagina 3 di Robinson, per dare anche un contributo alla rubrica In scena. È stato a teatro il suo sostituto in questo lavoro, Clark Gable, si faceva ancora chiamare all'epoca William Gable. una colonna sonora atmosferica, come il colore metafisica per lo stesso artista, anche per questo trio inglese di bassisti e contrabbassisti, la luce. È un disco molto luminoso questo, dove le linee, i tratti dalle corde che compongono queste scritture sono state portate anche come colonna sonora, infatti per alcuni documentari. Del resto l'immagine e la musica sono direttamente comparabili, allo stesso modo come l'arte. Altri suoni di oggi che va sfumando sulla musica di Rothko, tratto da questo lavoro per Low Recording. Low Recording, una label molto curiosa e innovativa, la collaborazione con un altro grande musicista di cui faremo monografia nella rubrica Altri suoni, Susumu Yokota. Insieme hanno lavorato e hanno portato queste immagini visive che abbiamo abbinato all'artista ripreso tramite la voce del figlio su Robinson, il primo magazine all'interno di Altri suoni, che inizierà a breve dopo gli spot. A tra poco, buon ascolto, buona luce. Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? E iniziamo i nostri magazine ufficialmente, seppur già partiti, con l'articolo su Mark Rothko e la colonna sonora dei Rothko in Altri suoni. Oggi parliamo di interferenze musicali. Interferenze, secondo voi, è una domanda che non mi sono mai posto con tutta la critica che porto alla digitalizzazione? Beh, la domanda è questa: possono i computer fare musica? Il risultato non sarà mai paragonabile a un prodotto della attività umana. Inizierei dal fondo, appunto, a leggervi o dare sunto a questo articolo portato da un autore, Miller Puckett, inventore di metodi per fare musica, premiato col Leone d'Argento alla Biennale Musica di quest'anno. Miller Puckett è un inventore di metodi per fare musica più di quanto sia musicista, e infatti come realtà di produzione musicale piuttosto che musicista. Nelle interferenze parla di quanto l'intelligenza artificiale, il computer, la digitalizzazione ha interferenza nel creare musica, presenza indubbiamente tantissima, ma per quanto riguarda la produzione, in conclusione no, non riuscirà mai ad arrivare a quella che è una struttura portata dal cervello umano, dalla fantasia, anche se la nostra ignoranza circa la natura della musica ci ha impedito di creare intelligenze artificiali in grado grado di generarla con risultati interessanti. Beh, benedetta ignoranza in questo caso, aggiungo. Oltretutto le sonorità del digitale, le sonorità al computer hanno ovviamente indispensabile necessità di creare quella che è la struttura che porta il nostro cervello con i suoi miliardi e miliardi di neuroni porterà, oltre che la tecnologia, la tecnica musicale, anche quello che è la composizione. Le intelligenze artificiali siano destinate a perdere qualsiasi gara di acume contro di noi o perfino contro i nostri animali domestici, aggiunge l'autore Miller Puket, ed è giustamente condivisibile questa affermazione. Il fascino, aggiunge, ed è secondo me il tratto chiave per quanto riguarda la struttura e di risposta a questa domanda, la chiave è che tanti musicisti sono molto affascinati da questo. E perché? Perché come un bambino crea una torre o una costruzione con i mattoncini, quelli abbinabili in stile Lego, per poi distruggere, la musica digitale dà questa possibilità di poter creare all'infinito per poi distruggere, e infatti vi è un mare magnum di produzione. Purtroppo tutto ciò ne dà anche conseguenze sulla qualità. Quello che più nell'immediato viene in mente con questa affermazione è con la fotografia. Un tempo la fotografia veniva ben misurata, no? Si prendeva, almeno per le famiglie non esattamente abbienti, porto l'esempio di quello che succedeva in casa mia, la macchina fotografica, la Kodak di papà, che non si poteva toccare, si prendeva unicamente per i momenti o di festa oppure di vacanza, che posso assicurare erano veramente molto rari nell'arco dell'anno. Ecco, in quel momento lo scatto si misurava bene, giusto per non sprecare quello che poi era una sorta di, tra virgolette, investimento per lo sviluppo, per la pellicola e quant'altro. Ecco, poi in seguito con le modalità di fotografia che abbiamo adesso, quante ne facciamo? Toh, mettetevi in posa, ecco, ve ne ho fatte 10, scegliete poi voi la migliore. Ecco, insomma, adesso questa è la capacità che, se vogliamo, può portare certo maggior scelta, ma può portare anche più superficialità e più disimpegno nell'esecuzione, questo appunto a scapito della qualità. Tutto ciò nell'articolo di Puket che leggiamo su Alias del Manifesto è assolutamente abbinabile alla musica. È il momento del primo stacco musicale. Yesterday Mistakes, gli errori che abbiamo fatto, loro sono gli Oi Va Voi, e poi torniamo per parlare di altre invenzioni sui magazine di oggi, lunedì 23 ottobre. Needed me, or at least that's what I thought. At times, the memories seem to be knocking at my door. I've seen the film a million times. Feels like I wrote the storyline. I refuse to replay the mistakes that we made yesterday. Stronger now, a victim of common sense. The truth is that I know I still confuse the past with the present tense, condensing what we had to to a single frame sticks in my mind as I try to move on. The same image comes back every time. Selfishness, I'd be grateful if you can forget my ingratitude. You think I'm twice the girl I am. They say we should forgive but not forget what has gone before. I refuse to replay the mistakes that we made yesterday. Iva Boy in questa intersezione musicale con il Medio Oriente e allo stesso tempo anche con sonorità soul. Beh, se l'arte e la musica hanno motivo di conversazione, ne sono un ottimo esempio gli Iva Boy. Benedette invenzioni, allora cambiamo, passiamo da Alias edizione del sabato, da cui siamo partiti con computer e musica, fino ad arrivare a Robinson a pagina 19 con le storie di tecnologia, quindi diamo una continuità. Benedette invenzioni, il chiodo, la ruota, la molla, il magnete, la lente, oggetti di uso quotidiano che ci hanno cambiato la vita. Nel saggio dell'ingegnera Roma Grabol, che è qui troviamo presentato nelle edizioni di Bollati e Boringhieri, la passione per la scrittura e il piglio della studiosa al punto di vista di chi non è nato in Occidente. E se divulgare l'ingegneria fosse affascinante e utile quanto divulgare la scienza, non ci sono misteri cosmici, materie oscure, buchi neri, frecce temporali, ma oggetti costruiti dagli esseri umani che ci hanno fatto vivere meglio sulla Terra e magari capire un po' meglio il nostro posto nell'universo. Eppure le storie della tecnologia sono sempre state relegate ai libri illustrati per ragazzi o all'opposto a ponderosi saggi parauniversitari. L'autrice Roma Grabuai prova a rinnovare il genere con il suo Dadi e Bulloni, a cominciare già dal titolo, o meglio dal sottotitolo, Sette piccole invenzioni che hanno cambiato parecchio il mondo. Fatte le debite proporzioni, lo stratagemma è lo stesso che ha contribuito a lanciare nel firmamento della saggistica mondiale Carlo Rovelli e le sue sette brevi lezioni di fisica della serie. Non vi spieghiamo tutto, ma solo sette cose, per di più brevi o anche semplici, piccole. Alcune ve le ho citate: il chiodo, la ruota, la molla, il magnete, la lente, insomma cose che certamente non sono. E poi diciamo, ma guarda te, pensa a te chi l'ha inventato, ma guarda, perché non l'hai fatto tu? Un po' come vedere certe opere d'arte, questa poi, allora perché non l'hai fatta tu? È difficile immaginare che qualsiasi manufatto umano possa essere ricondotto a un assemblaggio di solo 7 piccole invenzioni o delle loro evoluzioni, ma l'idea di ricercare gli elementi fondamentali dell'ingegneria è meramente vincente, anche perché ci stimola, come sollecita l'autrice, a scomporre poi in piccoli pezzi le costruzioni fondamentali degli oggetti intorno a noi, a riscoprire il piacere di capire come sono fatti e anche di cosa sono fatti. L'idea del bambino, che torniamo a un immaginario dell'infanzia, che in questo caso per una ricorrenza gli portano l'orologio e lui la prima cosa che fa vuol vedere come è fatto dentro. A te, cara Paola, ben ritrovata. So che sei all'ascolto, ti auguro una buonissima giornata, una buonissima settimana, e a breve avremo anche il quiz per portarvi questo lavoro che già avevo da tempo in un'altra edizione. Ne ho una pubblicazione a Delfi di Knut Hamsun, scrittore di cui vi parlerò, scrittore veramente ricco di talento, Il lavoro, tra l'altro, oltre che essere presentato all'interno di un magazine, è anche motivo per approfondire un articolo, un long format che mi pare sia sulla lettura del Corriere della Sera. Ne abbiamo trovato un piccolo occhiello di approfondimento. Invece su Repubblica si parla di disturbi alimentari, ma noi restiamo per adesso ancora su queste idee di invenzioni, che invenzioni in questo caso non sono, ma sono oggetti, tra l'altro molto utili, vetture che diventano poi anche motivo e icone per quanto riguarda la società. Si parla della R4, ma anche di tante altre, la Renault 4, questa macchina strana, ma ne parleremo tra poco. You believe. Variables, uno dei dischi per me disco dell'anno, adesso sono uscito un po' da queste dinamiche di fare delle classifiche come facevo da più giovane. Sicuramente uno dei dischi dell'anno, Alpha Mist, saranno anche al Bologna Jazz Festival se non vado errato, darò l'informazione e la data perché i concerti della rassegna di quest'anno sono veramente tanti, Veramente ricchi, tra l'altro questa è una delle poche settimane in cui mi pare di aver selezionato veramente poco dalla Domenica del Sole 24 Ore, uno dei fari illuminanti della nostra selezione, oggi tutti in ugual modo protagonisti. Passiamo allora alla lettura del Corriere della Sera, esce la domenica in edicola per tutta la settimana, lo consiglio non solo per le recensioni ma anche per gli approfondimenti per quanto riguarda tutte le espressioni culturali e artistiche. Allora vi dicevo di alcune vetture che sono diventate poi una realtà d'immagine, icone non solo per quanto riguarda la moda ma anche la società. Beh, la R4, chi è della mia generazione se la ricorda per il ritrovamento del corpo di Aldo Moro. R4, l'auto delle BR nelle pagine di Piero Trellini, la saga di una vettura che ha fatto epoca, il sequestro Moro, il mito di Brigitte Bardot, e anche Spartana in blue jeans, è una macchina giovane, almeno per l'epoca è una macchina pratica e comoda, strana, con questa apertura dei vetri in maniera orizzontale, con il cambio che non era posato sul pavimento della vettura ma era inserito nel cruscotto, l'auto che ha portato una sorta di immagine più pratica, l'auto veniva definita in blue jeans a sua volta come tante altre, poi anche nel corso dei tempi è stata protagonista per quello che è un cambiamento di status symbol. Beh, ricordate negli anni 80 avere la Golf, macchina che non ho mai amato, però avere il Golf era un motivo assolutamente di prestigio per i giovani, ancor prima avere una macchina veloce e scattante, l'Alfa Romeo, l'Alfa Rossa era qualcosa di una ripresa veramente veloce, di un motivo di prestante verità e velocità e sicurezza, ma anche un grande consumo, perché l'ho avuta. Non sono appassionato di auto, mi dicevano hai l'Alfa, dico, guardate che l'Alfa è una gran macchina anche se non ne sapevo mezza, però vi posso assicurare che i consumi dell'Alfa insomma influiva sul portafoglio, ecco. Ma restiamo sulle francesi, i più appassionati dicono i francesi faranno macchine buone quando smetteranno di fare auto, cioè non è esattamente la loro tazza di tè, ma non so poi fino a che punto. Ricordo la mia ultima auto che è stata una francese e vi posso assicurare che la ricordo con grande amore, perché poi ci si affeziona, siamo noi che non siamo appassionati e siamo molto ignoranti per quanto riguarda l'aspetto dell'automobile, che poi per altri motivi ci affezioniamo alla vettura, no? E qui ne parla di tutto ciò l'articolo a pagina 27 della lettura del Corriere della Sera, e particolar modo oltre che la R4 la Renault, allo stesso modo la famosa due cavalli, una struttura stranissima questa automobile, oppure per tornare alle tedesche il maggiolino della Volkswagen, tutte auto che davano un'importanza a quelle che poi sarebbero state delle iconografie per la società o addirittura in seguito degli status symbol. Prima di tutto troviamo i grandi industriali dell'auto in Francia, quindi insomma dai un minimo di rispetto su sui quali svetta Louis Renault, uomo visionario e caparbio che crea nel 1898 l'azienda meccanica di Boulogne-Billancourt, appena fuori Parigi, destinata a diventare una delle più importanti fabbriche del paese. Un po' la Mirafiori di Francia, dice, ma conosciamo anche André Citroën, concorrente di sempre per gli accessori, fratelli Michelin, poi vari altri imprenditori e funzionari, fino ad andare ed arrivare alle sponde ovviamente italiane, dove in contemporanea nasceva la Fiat. E poi addirittura quello che è stato un cambiamento nella produzione che applicava i principi dell'economia del taylorismo alla catena di montaggio. Stiamo parlando degli Stati Uniti d'America con Henry Ford. Non vi fa un po' effetto voi sentire questi nomi? E perché dai, lui Renault è una macchina, non è una persona. Mi fa un po' effetto poi quando li sento col nome di battesimo, lui Renault. Ah, esiste il signor Renault. Io pensavo fosse solo un'automobile. No, in questo articolo tra l'altro prendono forma con qualche nota di identikit e oltretutto adesso io non guardo quasi mai le risultanze nella recensione, ma questo lavoro di Piero Trellini in uscita per Mondadori, la R4 da Billancourt a via Caetani, come ho detto edizione Mondadori, ha veramente delle valutazioni molto molto alte, 5 stellette sia per lo stile che per la storia. In effetti la copertina lascia un po' a desiderare, però diciamo che in questo caso possiamo dire a quanto pare l'abito non fa il monaco, o almeno la carrozzeria non fa l'automobile. All Blues, il brano è di Ron Carter, anche lui sarà presente all'interno del Bologna Jazz Festival, ne parleremo al venerdì dalle 11.30 alle 12.30, dopodiché si ritorna in diretta perché si avvicina il momento della pubblicità e quando rientriamo daremo le risultanze del quiz. Ma quale il quiz? Datemi un attimo, Anzi, scusate, questi sono gli United Future Organization che ho preferito mettere. Magari Ron Carter al contrabbasso lo ascolteremo più tardi. I'll bet you thought I never find you. A tra poco. never find you. But one fact you forgot to face, so let me hasten to remind you, I wasn't looking for you in the first place. Vedi poi che Lino è più competente, mi aiuta a rispondere a queste critiche. I francesi hanno sempre fatto delle gran macchine che privilegiano comodità e funzionalità. Poi devi ricordare la DS, non conosco, di Diabolic, l'unica auto che andava solo a tre ruote. Mi ricordo molleggiatissima la due cavalli. La macchina di Diabolic non l'ho presente adesso. Grazie Lino che mi dai manforte su queste informazioni a proposito di vetture che non sono esattamente la mia tazza di tè, ecco, diciamo così. Allora, 333-180-9494, disturbi alimentari, ne parleremo a breve, prima parliamo piuttosto di fame. Allora, autore norvegese Knut Hamsun, alias della edizione domenicale dal Manifesto, quando ho visto questo nome, lui è un autore che a me piace tantissimo, l'ho conosciuto con questo lavoro. È un lavoro che racconta in una maniera tragica ma assolutamente concreta, e del resto quando ti mette queste sensazioni vuol dire che l'autore è riuscito in quello che vuole comunicare. Parla di questo protagonista che soffre la fame, è ambientato a inizio Novecento, pieno di debiti, in difficoltà economiche, non ha nemmeno i soldi per mangiare, e ok, c'è tutto, c'è la possibilità di coprirsi con quel che riesce a trovare, c'è la possibilità di avere anche un tetto sulla testa, però a volte non riesce, come si dice, a mettere insieme il pranzo con la cena e i crampi allo stomaco. La fame è semplicemente il titolo del libro, Fame di Knut Hamsun, ridotto a volte, per dare un'idea, per calmare, pensate a staccarsi un bottone del cappotto e far finta di morderlo e succhiarlo come fosse una caramella, perché almeno abbia la sensazione che ci sia qualcosa da mettere sotto i denti. Allora, io quando ho finito questo libro, che adesso non dico che è un racconto lungo, però sono poco meno di 200 pagine, i lettori lo portano a termine in un weekend, libro bellissimo. Lino mi ha mandato, ma è una Citroen questa, sì, mi assomiglia molto a... Sì, mi pare una, infatti l'hai ricordato, grazie che hai inviato l'immagine. Lino, appassionato di automobili da quel che capisco, oltre che di buona musica. Ma torniamo a tema del quiz, no? Disturbi alimentari, questo lavoro, fame, vi ho detto missione compiuta per quanto riguarda la sensazione di questi spasmi dovuti alla fame, con il protagonista ridotto in condizioni veramente allo stremo. Beh, allora a tal proposito io vorrei sapere un drammaturgo italiano nella commedia napoletana che ha portato questo bellissimo capolavoro, poi interpretato da Totò, Miseria e nobiltà, questa famiglia ridotta veramente alla fame. Ecco, questa è la situazione di una famiglia che si ritrova a non avere da mettere insieme il pranzo con la cena e costretta a immaginare di poter mangiare a sazietà, finché un bel momento un pranzo completo luculliano buonissimo arriva, no? E c'è questa scena di Totò che, per paura di non avere a sufficienza spaghetti, c'è l'immagine di lui che si mette gli spaghetti in tasca per dopo, per uno spuntino, capito? Lui è Ron Carter, All Blues, di questo ne sono certo. Hai una fame a un certo punto, dice un coprotagonista Totò, hai una fame che tu mangeresti anche le corde di un contrabbasso, altro che gli spaghetti. Non è certamente ironico il lavoro di Knut Hamsun, invece, ma è un grande capolavoro, quello riportato dall'autore di Miseria e Nobiltà. Mi dite, l'autore di Miseria e Nobiltà al 333-180-9494 è per voi Knut Hamsun, Fame, edizione per quelle che ho io a Delphi. Vedremo da chi è stato ristampato e riportato in libreria. Ricordo, l'autore di Miseria e Nobiltà al 333-180-9494. Che voce, eh? Edesius. Allora, Federica, guarda, se scrivi così alla fine te lo regalo io, non sei arrivata in tempo, ma la risposta è esatta. E appunto il quiz, chi è l'autore di Miseria e Nobiltà, come scrive giustamente Federica, Edoardo Scarpetta. Avevo mandato prima, ma un numero sbagliato. Intanto ti ringrazio per aver giocato con il Breakfast Club nei magazine del lunedì e vediamo un po' come rimediare. Non nascondo che sto pensando a un premio di consolazione per te. Grazie a Lino che è rimasto anche legato a questa conversazione sulle autovetture. La DS la usava Ginko, Diabolic usava la Jaguar E. Grazie, in realtà mi piacciono più le moto, come le Ducati, per tradizione familiare. Grazie Lino, grazie. Ecco, quello che ti posso dire è che al Breakfast non ci sarà uno speciale motori, perché proprio zero. Non sapete proprio niente, zero, diceva il mio prof di elettronica. Lino, Dino, poi mi confondo, ha scritto anche Dino. Dino, risposta esatta, Edoardo Scarpetta. Ma arriva primo un SMS che ha scritto subito. È Jarno da Calderare, Edoardo Scarpetta, esattamente. Jarno, il libro è tuo. E ti darò più tardi le modalità di ritiro, ecco, le coordinate per il ritiro di fame di Knut Hamsun, scrittore immenso, libro che a me è piaciuto tantissimo. Blood the rocks, far in the sky, a crack in the cloud where the misshaped moon is. Alone again on a piece of the whole. Ispirato oltre che dal lavoro che è stato riproposto da Marsiglio, ne parla a pagina 4 l'Alias edizione domenicale, la prosa pulsionale del giovane Knut Hamsun. Ecco, prosa pulsionale, bella questa definizione, vedete poi cosa vuol dire aver studiato, restituita in tutta la sua carica straniante nella nuova traduzione per Maria Valeria Davino. Fame è datato 1890, che ho detto, tanto io ho sbagliato, ho detto primi del Novecento, mentre invece è fine 800. L'edizione qua è Marsiglio, io ne ho l'edizione di Adelphi. Chissà Federica che non arrivi nella tua biblioteca questo, e quello di Marsiglio invece lo diamo al vincitore, Jarno da Calderara. Sembra il nome di un personaggio fantasy, sono Jarno da Calderara. Il titolo dell'articolo, beh, molto molto esplicito, una lingua che batte dove lo stomaco duole. Mamma mia, che brutta sensazione, mamma mia. Non ce la faccio più, dice la ragazzina di 12 anni. A fare cosa? Chiede la mamma. A vivere. Allora, nel 2010 al pronto soccorso del Bambin Gesù di Roma arrivano 150 pazienti all'anno per una consulenza psichiatrica. Stiamo vivendo un'emergenza, dice Stefano Vicari, responsabile di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Autolesionismo, soprattutto disturbi alimentari e aggressività. Ecco, disturbi alimentari. Pensiamoci un attimo, questo è il motivo di riflessione col quale vi lascio. sui giovani e non solo giovani, per quanto riguarda le epoche che stiamo vivendo, sulle disparità sociali e sui relativi disturbi poi alimentari. Quello che abbiamo passato noi ormai di mezza età, non dico che abbiamo vissuto, ma certamente vi era un altro approccio col cibo. Ecco, noi non ci chiedevano se l'acqua è temperatura ambiente o no, l'acqua la vuoi da frigo o la vuoi naturale. E tante cose, tante altre situazioni che adesso non ho motivo e soprattutto tempo, più che altro tempo ne avrei motivo e come per approfondire, però Fame di Knut Hamsun è una risposta sicuramente molto concreta all'articolo che troviamo poi in long format sulla lettura. È il momento della seconda colazione, voi fate la seconda colazione, io sì. E quindi vi auguro una buonissima giornata, un buon lunedì, un buon inizio settimana. Vi ricordo che l'appuntamento alla prima colazione domani alle ore 7, ci sarà Mood Groove, ci saranno gli altri suoni, la lettura delle prime pagine, il format che apre le dirette su Radio Città Fujiko. Quindi per quanto riguarda la quotidianità sui 103.1, a breve l'EDP enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, poi avremo la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, dalle 10.30 alle 12.30 allo sport con Mingo & Company, ma il Breakfast Club vi aspetta alle ore 7 di domani, augurandovi un buon lunedì e una buona settimana. Un caloroso abbraccio dal vostro William Piana, grazie ancora, ciao a tutte, ciao a tutti, a domani. To the door, visualize the role she never played. Brave words die on your lips in a way.